Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti. Oggi a Salva Danaio torniamo a parlare delle difficoltà della crisi. Tra l'altro siamo in una settimana in cui ci sarà anche un evento piuttosto particolare, anche se per la verità si replica da qualche anno a questa parte, c'è lo sciopero della spesa che è stato organizzato dalle associazioni dei consumatori. Noi ne parleremo domani, per cui è un tema ricorrente quello appunto dello stato di difficoltà di molte famiglie italiane. C'è una crisi che non smette di far sentire il suo peso, in particolare per chi deve sostenere con le sue spese, con il suo lavoro, la responsabilità di una casa, di un figlio, di più figli, di una famiglia. Se da un lato il nucleo familiare si sta dimostrando la vera risorsa della nostra società in questi anni, pensiamo all'appoggio che riescono ancora a dare gli anziani, i nonni, i pensionati, dall'altro è sicuramente quello che ne subisce maggiormente, il contraccolpo. Nell'ottica di dare una boccata d'aria alle famiglie sono nate diverse iniziative promosse e sostenute dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, quelle banche che sono invece prese naturalmente nel mirino da parte anche di noi tutti. Molto spesso le contestiamo duramente perché da anni non riescono a fare credito regolare a imprese e famiglie, anche loro strette nella morsa della crisi. Comunque la più conosciuta di queste iniziative, perché a Salva Danaio tra l'altro ne abbiamo parlato spessissimo, è il cosiddetto piano famiglie, la moratoria che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo. La buona notizia arrivata in realtà quest'estate, noi ne parliamo solo oggi ma tanto siamo ancora assolutamente in tempo, è che questo progetto è stato prorogato, praticamente quella che è stata varata è la quarta moratoria, e si potrà fare domanda di sospensione del mutuo ancora per i prossimi mesi fino a tutto il mese di gennaio. Accanto alla proroga della moratoria sui mutui è stato rinnovato anche il cosiddetto fondo per i nuovi nati, ma ci sono anche altre due iniziative in cantiere, non ancora partite, per le quali l'ABI intende farsi promotrice, stimolatrice nei confronti appunto dei ministeri competenti. Ve ne parleremo. Appunto c'è un quadro più ampio di iniziative che si chiama Percorso Famiglia. Noi oggi ne parleremo e quindi vi racconteremo bene di che cosa si tratta, ma naturalmente il nostro focus sarà soprattutto per le famiglie che non riescono a pagare la rata del mutuo, e oggi dunque ritorniamo a parlare della cosiddetta moratoria. Vi siete trovati in difficoltà nel rispettare questo impegno mensile? Che cosa avete fatto? Come ne avete parlato e discusso con il direttore di banca? Vi ha aiutato a appunto organizzare e predisporre questa sospensione temporanea? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Noi vi ribadiremo quali sono appunto i parametri che vi permettono, se avete bisogno, di sospendere il mutuo per un anno. Maximilian Cellino, il Sole 24 Ore, torna con noi finalmente da un po' che non lo invitiamo, purtroppo. Max, ciao, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Anzi, così come ridò il bentornato anche al dottor Angelo Peppetti dell'Ufficio Crediti dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Peppetti, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno. Allora, ho ricordato il numero verde per gli interventi in diretta degli ascoltatori. Le altre modalità di interazione con noi sono sempre le stesse. Per gli sms 349-238-6666 ci potete scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete scriverci anche sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Diamo un'occhiata anche alla borsa perché è una giornata interessante. Oggi siamo reduci da sedute promettenti sui mercati. Mercato che ha ritrovato grande slancio dalle iniziative di stimolo monetario prese dalla Banca Centrale Europea. Per la verità, più che di uno stimolo monetario, la BCE ha varato, come ricorderete, il cosiddetto piano antispread, salva spread, chiamiamolo come vogliamo. Poi ci sono state le iniziative della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che ha lanciato questa terza operazione che in gergo finanziario si chiama di quantitative easing. Quindi da oggi la Federal Reserve inizia a comprare sul mercato titoli obbligazionari che sono in verità in questa terza fase base del quantitative easing legati soprattutto proprio ai mutui, ai crediti ipotecari. E poi c'è stata anche settimana scorsa l'attesa decisione della Corte Costituzionale tedesca che ha dato il via libera al fondo salva stati. Tutto questo ha dato un forte slancio ai mercati, che oggi però si fermano. In Europa si prendono una giornata di pausa, gli operatori passano l'incasso, un po' di prese di profitto. Parigi scende dello 0,5%, Francoforte meno 0,2%, Londra meno 0,27%, mentre Milano perde un po' di più, perde un punto, scendono tutti i titoli del settore bancario. Come vi ho anticipato nel giornale radio, da venerdì scorso, e quindi praticamente la, diciamo, per la verità misura è attiva da oggi, la Consob ha tolto il divieto alle vendite allo scoperto, introdotto il 23 luglio e prorogato fino al 14 settembre, però rimane il divieto di effettuare le vendite allo scoperto nude, cioè quelle che praticamente non hanno la disponibilità sostanzialmente concreta dei titoli al momento dell'ordine. Sotto i riflettori, allora vi dico i titoli bancari peggiori: Popolare dell'Emilia Romagna e Monte dei Paschi meno 3, meno 2 per Unicredit, Intesa San Paolo, meno 2 anche per Mediaset, nell'occhio del ciclone, insieme naturalmente ai titoli di Telecom Italia Media, che è l'editore praticamente della 7, perché pare che ci sia appunto questo interesse a rilevare anche questa TV, le frequenze di questa TV, un'operazione che è sicuramente complessa. Chiaramente si pongono dei forti problemi di concentrazione del mercato editoriale e pubblicitario, per cui vedremo se si porterà avanti o meno, ed è sicuramente una storia non solo finanziaria ma in qualche maniera un po' anche politica, dalla quale si parlerà a lungo nelle prossime settimane. I titoli migliori invece a Piazza Affari: Ansaldo più 2,26%, Mediobanca più 0,9%, Finmeccanica più 0,9%. Euro su dollaro a 1,3117, ritorna a riprendere quota la moneta unica europea, mentre lo spread fra BTP e Bund a 336 punti base. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sui mutui, sui mutui delle famiglie in difficoltà. Sono circa 68.000, secondo i dati più recenti a disposizione, i mutui sospesi nell'ambito del progetto del Piano Famiglie dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Il piano è operativo da quasi 3 anni e ha permesso a molte famiglie in grosse difficoltà economiche di sospendere il pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi. Durante l'estate è arrivata una nuova proroga. Le domande si potranno presentare fino al 31 gennaio 2013. E i motivi sono facilmente comprensibili. A fronte di una situazione economica ancora difficile, moltissimi mutuatari non sono ancora in grado di sostenere i pagamenti. L'iniziativa, siglata in un protocollo d'intesa tra ABI e associazioni dei consumatori, vuole quindi andare incontro alle tante conseguenze della debolezza dell'economia italiana in questi anni di crisi. In primo luogo, la disoccupazione in aumento, con la perdita del lavoro che non solo impedisce di progettare a lungo termine, ma mette in seria difficoltà progetti e investimenti già messi in atto. La moratoria si inserisce inoltre in un progetto più ampio, che l'ABI ha chiamato Percorso Famiglia, e che prevede anche altri interventi volti a promuovere, intervenendo in accordo con i ministeri, il sostentamento della vita di un nucleo familiare nelle sue diverse fasi. L'acquisto di un'abitazione da parte di una giovane coppia, il sostegno allo studio dei figli e anche l'appoggio nel momento della nascita o dell'adozione di un bambino, con il fondo Nuovi Nati, in vigore dal 2009 e ora anch'esso rinnovato, volto a favorire l'accesso al credito per le famiglie con bambini nati o adottati nel 2012, 2013 e 2014. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, oppure potete scriverci al 349-238-6666 al nostro indirizzo salvadanaio@radio24.it, o potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook. Speriamo con la voce di arrivare a fine trasmissione. Oggi farò parlare molto Maximilian Cellino, Angelo Peppetti e anche i nostri ascoltatori, speriamo. Allora, detto questo, dottor Peppetti, inizio subito da lei. L'ultima volta che ci siamo sentiti era stata l'8 febbraio, quando praticamente da ABI, che ricordiamo ha varato questa iniziativa con l'ausilio e la collaborazione molto stretta di un gruppo di associazioni dei consumatori, quando era stata varata praticamente la terza moratoria sui mutui. Adesso siamo alla quarta edizione, purtroppo questo testimonia un perdurante stato di difficoltà per molte famiglie. Quello che va ribadito con molta chiarezza, le chiedo appunto un aiuto su questo, è che in ogni caso, anche se si tratta di una quarta moratoria, non è che si tratta di una nuova possibilità per famiglie che avevano già sospeso una volta il mutuo. Si tratta di dare la possibilità magari a nuovi nuclei familiari in una condizione nuova di difficoltà di sospendere temporaneamente appunto il pagamento delle rate, così? Sì, ha inquadrato bene l'iniziativa, si tratta della quarta proroga di questa iniziativa di sospensione, questo è stato, come dire, concordato con la maggior parte delle associazioni dei consumatori in considerazione della situazione di grave crisi che sta perdurando purtroppo a partire dal 2009. Ebbene, è giusta questa precisazione, chi ha già usufruito di una sospensione, per esempio non solo per l'iniziativa di autoregolamentazione avviata dall'associazione bancaria, ma ad esempio per iniziative di natura di legge, come è avvenuto per quanto riguarda ad esempio i terremoti che si sono avvenuti sia nella regione Abruzzo che nell'Emilia Romagna, ovvero nei casi degli avvenimenti delle alluvioni nel Veneto o nello Spezzino, non possono più usufruirne, questo anche perché dobbiamo tener conto che la nostra autorità di vigilanza ci impone un'attenta analisi e valutazione della rischiosità in portafoglio delle banche, quindi ciascuna banca, anche in relazione alla situazione di crisi che riguarda e impatta anche sul bilancio delle banche, non deve prorogare più di un certo periodo la sospensione, quindi è garantita per le nuove famiglie che non hanno mai usufruito di un'iniziativa di sospensione negli anni precedenti. Dottor Peppetti, c'è Alessandra che al 349-238-6666 ci scrive: quanti sono i casi simili di moratoria in Europa? Sarei curiosa di saperlo. È stato più volte enfatizzato il fatto che in tutta Europa, credo che solo in Italia sia stata presa un'iniziativa di questo tipo. Non so se andarne fieri o meno, però in ogni caso c'è questo sostegno, c'è stato, non so che qualche cosa rappresenti questo indice, ma in ogni caso mi pare che solo in Italia ci sia, giusto? Beh, guardi, solo noi ne andiamo fieri perché rappresenta un'iniziativa che non ha uguali al mondo, non solo in Europa, in primo luogo perché obbliga le banche a sospendere. Questo rappresenta, seppure è previsto, come dire, un rimborso degli interessi nel periodo di sospensione, rappresenta un costo per l'industria bancaria, anche per questo c'è un faro importante dell'autorità di vigilanza. Ha riguardato 75.000 famiglie per un controvalore di debito residuo intorno agli 8 miliardi e mezzo e ha garantito circa 600 milioni di liquidità nel periodo di sospensione per le famiglie. Si tratta tra l'altro di un successo che ha avuto l'attenzione del governo, tant'è vero che negli eventi terribili che si sono susseguiti, quindi parliamo dei terremoti, delle alluvioni, ci sono state vere e proprie ordinanze che hanno determinato la sospensione, anche per esempio ampliandola ai finanziamenti alle imprese. Quindi è una iniziativa che ha avuto non solo successo, ma è stata talmente utile che è stata poi trasformata in alcune situazioni particolari in legge. Tra l'altro ho sentito che ci ha dato questa cifra di quante sospensioni le banche hanno concesso, 75.000, l'ultima stima ufficiale che avevo sempre fonte ABI era di 68.000 ed era la stima appunto rilasciata a fine luglio, per cui questo significa che addirittura nel giro di due mesi se ne sono aggiunte altre 7.000, sono cifre veramente importanti che appunto confermano quanta difficoltà ancora ci sia intorno a noi tra molte famiglie, magari anche tra quelle che conosciamo e che non ci dicono che effettivamente hanno dovuto anche fare questa richiesta al direttore di banca. Fra un po' sentirò la domanda di Gaetano da Brescia, gli chiedo solo un minutino di pazienza. Max, penso che io e te deteniamo il record mondiale assoluto di trasmissioni sui mutui che io ho fatto naturalmente grazie anche alla tua collaborazione, insieme anche al dottor Peppetti, all'ABI e a tanti altri. Ringrazio anche pubblicamente tutte le associazioni dei consumatori che su questo argomento ci danno sempre una grande mano. Un anno fa ne parlavamo di nuovo della moratoria, quindi probabilmente sarà stata la seconda varata, perché terza febbraio, quarta questa, e contestualmente a quella edizione di quella moratoria era partito anche il Fondo di Solidarietà, un'altra iniziativa che aveva un po' una matrice un po' di più istituzionale. Che fine ha fatto questo fondo, Max? Ti ricordi qualcosa? Ma il Fondo di Solidarietà è in teoria attivo. Intanto spieghiamo più o meno che cos'è e qual è più o meno la differenza rispetto al piano famiglie. Il piano famiglie era un'iniziativa, appunto un accordo ABI e Associazione dei Consumatori. Il Fondo di Solidarietà è nato con molte difficoltà come una forma di aiuto più istituzionale, nel senso che un vero e proprio fondo. Il governo stanzia il denaro per la sospensione dei mutui delle famiglie in difficoltà che ne fanno richiesta. È un fondo che ha cominciato a lavorare Adesso il tempo, il momento preciso non lo ricordo, mi sembra che fosse a fine 2010 in realtà. Sì. Il fondo è stato promosso dall'onorevole Federica Rossi Gasparrini, che si è battuta moltissimo per questo. Presidente di Federcasalinghe. Esatto, sì. per l'attivazione di questo aiuto alle famiglie. E ha esaurito la prima dotazione, che erano 20 milioni di euro, perché a differenza, adesso non vorrei entrare in tecnicismi che sono abbastanza complicati, ma a differenza del piano famiglie funzionava in questa maniera: c'era un fondo, c'era il denaro e in pratica il governo stanzia questo denaro per la sospensione delle rate, che poteva venire appunto per 12, anzi anche fino a 18 mesi se non ricordo male. Esauriti questi 20 milioni di euro, che peraltro potevano essere stanziati a chi ne faceva ovviamente domanda al di sotto di certi livelli di reddito e di mutuo, anche per chi per esempio aveva sostenuto delle spese per assistenza ai familiari a carico. Questa è una novità per rispetto alle problematiche di esatto, salute, sì. Esatto, anche per la ristrutturazione dell'abitazione. Poi però questo è stato, in un secondo momento è stata tolta questa agevolazione, perché qualcuno, diciamo tra virgolette, ci aveva un po' marciato su questa storia. In ogni caso adesso sono stati dati ci sono nuove dotazioni per questo fondo, che dovrebbe funzionare in parallelo, e in teoria non dovrebbe appunto essere concorrenziale rispetto al piano famiglie. Perché ci dovrebbe essere la possibilità anche di saltare da uno all'altro nel momento in cui una famiglia ha avuto la sospensione per 12 mesi col piano famiglie, non riesce ancora a riprendere i pagamenti con la propria banca, dovrebbe essere in grado di poter richiedere l'altra agevolazione, sempre se ne ha i requisiti, perché sono differenti effettivamente, sono leggermente differenti, e potrebbe essere una soluzione al problema di chi è ancora in difficoltà a riprendere i pagamenti. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi parliamo di mutui, non però di chi sta comprando casa ora e si accinge ad andare a fare questa simpatica chiacchierata con il direttore di banca per capire se è in grado di ottenerlo o meno, ma di sicuro su questo tema ci torneremo presto. Per chi tra l'altro volesse orientarsi in questa materia, domani con il Sole 24 Ore è in edicola un libricino, perché sta proseguendo l'iniziativa La tua economia, come affrontare e superare la grande crisi. Domani è in edicola proprio il Vademecum sul mutuo, una guida per orientarsi e decidere in piena consapevolezza finanziaria. Per chi invece il mutuo ce l'ha già, ma da qualche tempo non riesce a pagarlo perché sono arrivate difficoltà nuove nella famiglia, perché soprattutto il capofamiglia o un altro componente del nucleo familiare ha perso il posto di lavoro e quindi si fa fatica a togliersi 5, 6, 700 euro di mutuo ogni mese, allora magari si ha la necessità di prendersi una boccata d'ossigeno da 3 anni. E c'è appunto questa iniziativa di ABI che è stata appunto studiata e concretizzata in collaborazione con il governo, con le associazioni dei consumatori. Appunto c'è questa possibilità di chiedere al direttore di banca una moratoria, una sospensione per 12 mesi del mutuo stesso. Però ci sono alcuni ascoltatori appunto che vogliono che ribadiamo quali condizioni sono necessarie per poter fare questa richiesta. Uno di questi ascoltatori era Gaetano da Brescia, che è stato il primo ascoltatore a mettersi in linea. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei, ci dica. Allora, io volevo proprio sapere le condizioni, cioè per poter chiedere la sospensione, perché a me hanno detto che c'è un limite, c'è un tetto sul mutuo che si è richiesto. Sì, è vero, è così. Ecco, nel mio caso però, il mio mutuo è intestato a 3 persone. Ah, e quindi voleva sapere se appunto c'è la possibilità di spezzettare, quindi... Gaetano, cioè, attenda lì. A mia moglie, a me e a mia suocera. Quindi io volevo capire se il totale a questo punto può diventare un totale che non è su un unico soggetto, ma è diviso su 3 persone. Gaetano, complessivamente che mutuo aveva chiesto? La cifra complessiva, allora, e da quando ce l'ha? Sì. Io ce l'ho dal 2006. Sì. La cifra iniziale era 2,80. Mm-hmm. Adesso sono 245, 244. Però divisa per 3, immagino che la rata sia non trascurabile. È un migliaio, circa 1.100 euro al mese. E avrebbe bisogno appunto di fare temporaneamente questa sospensione. Andiamo al dottor Peppetti dell'ABI che ci aiuta a chiarirci le idee. Dottor Peppetti, allora intanto magari possiamo fare una piccola sintesi delle condizioni standard per chiedere la sospensione, poi magari rispondiamo nello specifico a Gaetano. Sì, allora la sospensione è concessa per coloro che hanno un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e questo riguarda ciascuno dei contestatari, per dire se ci sono due contestatari del mutuo sono 40.000 euro per ciascuno degli stessi di 80.000 euro diciamo del nucleo familiare in generale. L'importo del finanziamento, qui rispondiamo anche all'ascoltatore originario, non deve essere superiore a 150.000 euro. È anche vero tuttavia che alcune banche hanno avviato delle iniziative proprie volte ad ampliare questo importo, quindi io consiglio l'ascoltatore di andare sul sito dell'ABI, cioè l'elenco delle banche nelle quali ciascuna banca ha definito poi le proprie condizioni che sono migliorative rispetto a quelle che sono previste dal nostro documento. Quindi tecnico. Qualche banca può aver stabilito 180.000 piuttosto che 200.000. Ma anche senza limiti, ci sono situazioni senza limiti, stiamo parlando anche di grandi banche, quindi occorre verificare un attimo quale sia la propria banca che ha erogato il finanziamento. Riguardo tutte le tipologie di mutuo e anche in fase di preammortamento, garantita ipoteca su immobili residenziali per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione, ovviamente l'abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso, quindi sia fisso, variabile o misso, sono inclusi anche i mutui che sono stati oggetto di cartolarizzazione, purché questi mutui non abbiano un ritardo di pagamento superiore a 90 giorni consecutivi, e questo per tener conto della nuova normativa di Basilea, per le banche, sì, perché prima il limite era di 180 giorni, diciamo, la possibile. Va bene, ma a parte questo, però stavo pensando a Gaetano che non ci ha detto una cosa fondamentale, la questione del posto di lavoro, nel senso che magari, ecco, questo nucleo familiare può essere per tutta una serie di motivi nella condizione appunto più difficoltosa in questo momento di onorare questo impegno mensile, però c'è un requisito fondamentale, cioè che bisogna dimostrare di aver perso il posto di lavoro, no? In questo lasso di tempo, dottor Peppetti. Esatto, diciamo che gli eventi riguardano il periodo che intercorre tra il 1 gennaio del 2009 fino al 31 dicembre di quest'anno e gli eventi sono la perdita del posto di lavoro per qualsiasi tipologia di contratto, quindi non parliamo soltanto di contratti a tempo indeterminato ma anche in quelli cosiddetti contratti atipici, per fare un esempio, oppure l'entrata in cassa integrazione o forme di solidarietà che prevedono una riduzione dell'orario lavorativo per situazioni di crisi, ovviamente la più importante è la cassa integrazione guadagni, ma vi sono anche altre forme in relazione alla tipologia di contratto di lavoro, nonché la morte o il grave infortunio di uno dei mutuatari. Occorre ricordare che anche in questo caso le banche hanno avviato altre iniziative di autoregolamentazione che hanno ampliato gli eventi estendendo le cause che possono determinare la perdita del posto di lavoro. Soltanto due numeri e concludo: alla fine del 2011 tra quelli che abbiamo sospeso il 49,6% ha riguardato la perdita del posto di lavoro, il 26,8% la sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione o altre forme di solidarietà, mentre solo il 3% ha riguardato la morte o la situazione di grave infortunio. Sottolineare come sia fondamentale in questo momento un sostegno per le famiglie nei casi ovviamente di riduzione del proprio stipendio, addirittura la perdita del posto di lavoro. Abbiamo appreso nel frattempo che Gaetano non aveva nessuna precedente condizione lavorativa di questo tipo, nel senso che è un lavoratore autonomo. Questo è stato oggetto, questo aspetto, di una grande discussione tra ABI e Associazione dei Consumatori, perché le associazioni dei consumatori avrebbero voluto far contemplare anche nell'ambito della rosa dei possibili titolari di diritti appunto per ottenere la sospensione anche il lavoratore autonomo, però su questo, Maximilia, magari 30 secondi possiamo ricordarlo, non l'hanno spuntata perché è molto difficile appunto risalire a quanto effettivamente calo magari delle entrate un lavoratore autonomo ha. E quindi è difficile poter quantificare la difficoltà economica, chiamiamola così, che gli darebbe poi diritto ad ottenere la moratoria, la sospensione. Sì, non esiste un criterio così oggettivo come per quanto riguarda la perdita del posto di lavoro oppure l'entrata in cassa integrazione guadagni, quindi è sempre stato molto complicato capire quando un lavoratore autonomo poteva accedere a questi aiuti, e quindi ahimè ai noi non è stato fatto praticamente mai niente. Quello che noi ripetiamo sempre, ma ormai da anni io e Deborah, alle persone che si trovano in difficoltà, è di cercare comunque di sentire la banca. Per molti casi le banche si sono trincerate purtroppo dietro una rigidità che non fa comodo. Ovviamente non fa comodo al cliente, ma non fa comodo neanche a loro, perché un cliente che non riesce a pagare è un problema anche per la banca. In altri casi invece probabilmente si è riusciti a venirsi incontro per cercare quantomeno una soluzione temporanea. Insomma, ripetiamo, nell'interesse di entrambi sembrerebbe un problema di buonsenso, anche se poi purtroppo E non è stato proprio, diciamo, la linea guida fondamentale in molti comportamenti negli ultimi anni, ma va compreso anche questo. Volevo sentire la domanda di Natale dalla provincia dell'Aquila, che saluto, perché effettivamente pone una questione interessante, che è quella relativa a intanto che cosa succede quando si devono riprendere i pagamenti, cioè che tipo di rata si paga, se è esattamente quella che avevamo lasciato, cioè qualcosa di diverso, perché comunque per un anno non abbiamo pagato e quello che non abbiamo pagato prima o poi dovremo ripagarlo. Però c'è anche un altro aspetto che non abbiamo ancora detto e ce lo sottopone appunto proprio il nostro ascoltatore dall'Aquila. Natale, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, il mio problema è questo: io abito all'Aquila, ho avuto una sospensione mutuo per terremoto, però per il periodo della sospensione mi sono stati fatti pagare degli interessi, cioè in definitiva è come se la banca mi avesse prestato per il periodo della sospensione i soldi relativi che avrei dovuto pagare come rate. Quindi lei li versava mese per mese oppure se li ha ritrovati alla ripresa? Esatto, li ho avuti alla ripresa, ho avuto un conguaglio, evidentemente una cifra non estremamente importante, però in definitiva... Inaspettata comunque. Sì, anche perché poco tempo fa voi avete detto in questa trasmissione che non lei... Il suo interlocutore, vabbè, comunque questa che le banche avevano fatto uno sforzo non far pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Non farli pagare in quel momento, ma non farli pagare forse in assoluto, Natale. Dottor Peppetti, riusciamo a dare una spiegazione al nostro ascoltatore dell'Aquila che aveva avuto la sospensione del suo mutuo perché evidentemente vittima del sisma del 6 aprile di qualche anno fa, però non capisce per quale motivo poi si è ritrovato a pagare appunto gli interessi del mutuo in questo conguaglio appunto che gli è stato applicato non appena ripreso il pagamento delle rate. Sì, guardi, la sospensione che è stata effettuata per legge, ma questo ha riguardato anche poi le sospensioni successive per quanto riguarda gli eventi alluvionali nel Veneto, in Toscana e l'ultima, la sospensione in Emilia-Romagna, è uguale, identica a quella che viene applicata e calcolata nell'ambito del cosiddetto piano famiglie, ossia nel periodo di sospensione si applicano gli interessi contrattuali sul debito residuo, che però non vengono pagati nel periodo di sospensione, ma vengono poi, una volta ripreso l'ammortamento normale, spalmati sul restante periodo di tempo, quindi sui quali poi non si applicano ovviamente ulteriori interessi perché ovviamente è una misura agevolativa, quindi in sostanza è come se quel periodo di sospensione, gli interessi che vengono maturati in quel periodo di sospensione vengano ripartiti e spalmati, ripeto, durante il successivo periodo di ammortamento, con un aggravio che è limitatissimo sulla rata del finanziamento. Ecco, tra l'altro stavo pensando, allora, se ci può ribadire, giusto per farlo capire anche a chi magari adesso nella naturalmente emergenza di dover chiedere al direttore di banca la sospensione temporanea, non ha magari ben capito il meccanismo di ripresa del pagamento, no? Perché adesso dice io ho bisogno intanto di togliermi questa rata mensile, l'importante è che la banca mi dia l'ok, ma magari ha trascurato un po' di comprendere fino in fondo come avverrà la ripresa del pagamento, ammettendo appunto che una famiglia abbia avuto questa possibilità. Quale sarà la rata che si ritrova a pagare quando riprende il piano regolare di pagamenti, dottor Peppetti? Sarà una quota maggiorata, perché appunto c'è stata in ogni caso questa sospensione anche degli interessi, se viene spalmata successivamente nell'ammortamento residuo, la nuova rata sarà un pochino più alta. Esatto, sarà un pochino più alta. Facciamo un esempio: su 100.000 euro, supponiamo si applichi un interesse al 3%, alla fine dell'anno si ottengono 3.000 euro di nuovi interessi. Questi nuovi interessi verranno spalmati nel corso del restante periodo di ammortamento, per esempio in 10 anni, ad esempio, quindi in 120 rate, quindi 3.000 di 120 rate sono all'incirca 20 euro al mese in più che si vengono a pagare sulla rata del mutuo. Allora, andiamo a Giancarlo da Torino, perché ha un altro quesito invece che probabilmente ce lo stanno anche scrivendo, si fanno in molti ascoltatori, perché molti ritengono che avendo perso il posto di lavoro possono automaticamente andare in banca e chiedere la sospensione. Purtroppo alla sospensione si ha diritto se ci sono contestualmente tutta un'altra serie di parametri, li abbiamo ribaditi anche all'inizio, per cui effettivamente bisogna rispondere ad un po' di cose, non c'è solamente la perdita del posto di lavoro. Giancarlo da Torino, buongiorno. Buongiorno, senti, il mio problema è questo: io ho fatto un mutuo nel 2010 con mia figlia come garante, e praticamente mia figlia ha perso il posto di lavoro nel 2011 e io ho ridotto anche le ore di lavoro, perché logicamente con la crisi le ore straordinarie, notturne, non ci sono più. Il calcolo del mio mutuo è stato fatto appunto con un reddito molto più alto, perché c'era una busta paga in più e c'era questo lavoro notturno che incideva per il 30-40%. L'intestatario del mutuo è esclusivamente lei, Giancarlo? Sì, l'intestatario del mutuo sono esclusivamente io. Ho chiesto alla banca se si poteva accedere a questo tipo di agevolazione, mi ha detto no, che appunto se perdevo il posto di lavoro io sì, però per quanto riguarda il fatto perché mia figlia ha perso il posto di lavoro, no. Per che mi ha fatto fare anche un'assicurazione sul mutuo, il mutuo è di 200.000 euro, che ho quasi pagato 10.000 euro di assicurazione. Quello è tutto un altro problema, peraltro, Giancarlo, che poi mi rendo conto che incida anche ovviamente nella partenza di tutto il finanziamento, qualche volta qualche assicurazione concede anche di spalmarlo appunto nelle rate. Magari ne affronteremo in un'altra puntata questo argomento, perché è stato oggetto anche tutta una serie di dispute tra il settore assicurativo, fra le imprese di assicurazione, appunto l'ISVAP, l'autorità di controllo di questo mercato, che aveva chiesto anche alle banche che chiedono ai clienti appunto di stipulare queste polizze. Insomma, è stata una situazione piuttosto ingarbugliata, ci ritorneremo. Detto questo, l'obbligo c'è, soprattutto per chi fa dei mutui piuttosto alti, perché chiaramente anche la banca deve tutelarsi. Questa però è un'altra questione. Detto questo, dottor Peppetti, allora Giancarlo è l'intestatario del mutuo a cui ha fatto garante però la figlia, adesso qua entrambi si trovano in una condizione professionale difficoltosa. Giancarlo, mi pare di capire, non potrebbe rientrare nella moratoria, rimane fermo il discorso che abbiamo fatto all'inizio di comunque fare una chiacchierata col direttore di banca, di superare la possibilità della moratoria e fare altro? Sì, allora ciascuna banca ovviamente è legata almeno a quanto è scritto ovviamente il nostro accordo tecnico che ha sottoscritto, però ovviamente può sempre, e questo l'abbiamo più volte sottoscritto, sottolineato, invitato le banche a offrire condizioni migliorative nell'ottica di andare incontro alle esigenze del cliente. Secondo quanto ci ha detto il radioascoltatore, lo stesso non potrebbe rientrare nell'ambito della sospensione, perché l'evento dovrebbe riguardare esclusivamente il mutuatario e non il suo nucleo familiare. La scelta era stata fatta per evitare situazioni strumentali di abuso che c'erano state, ad esempio con il fondo, fondo di solidarietà di cui abbiamo detto prima, sì. In precedenza. Una brevissima battuta sulle assicurazioni: ricordiamo che l'assicurazione non tutela la banca, tutela il lavoratore. La banca è comunque tutelata dall'ipoteca sulla casa, e il lavoratore è tutelato. Devo dire che dal 2008 al 2010, secondo una nostra indagine, fatto 100 il numero delle polizze, come dire, escusse nel 2008, il 2100 è arrivato al 400%. Questo a sottolineare come le polizze assicurative sulla perdita del posto di lavoro, soprattutto nel nord Italia, hanno aiutato molte famiglie ad evitare di perdere il posto di lavoro, la propria abitazione. Accantonerei al momento la questione, ma sicuramente ci ritorneremo per approfondirla, per capire adesso anche le famiglie che scelte fanno, visto che non c'è l'obbligo di sottoscrivere appunto questa polizza con la magari compagnia di assicurazione che propone la banca che eroga il mutuo, c'è un po' più libertà, qualche volta però appunto le banche invece impongono le società che dicono loro. Vedremo se questa situazione si è chiarita meglio. Detto questo, dottor Peppetti, a parte i mutui, volevo anche che ci raccontasse qualche dettaglio in più rispetto al fondo Nuovi Nati, che anche questa è una replica di un'iniziativa precedentemente esistente, ha una dotazione patrimoniale di 25 milioni di euro. Chi può far richiesta di questo piccolo finanziamento di 5.000 euro, ma che comunque quando arriva un bebè in casa anche questo è piuttosto comodo? Assolutamente sì, tra l'altro è uno dei fondi che ha avuto il maggior successo in assoluto nel nostro paese, all'incirca erogato, considerando che i finanziamenti massimi sono di 5.000 euro, ha erogato all'incirca 120 milioni di finanziamento in totale, e quindi ha riguardato più di 20.000 operazioni. Riguarda sostanzialmente la possibilità di ottenere un finanziamento a tassi agevolati, perché il tetto massimo è pari al 50% del valore medio del tasso che si applica normalmente a un prestito personale, e riguarda tutti i soggetti che hanno avuto nuovi nati nel periodo che in questo caso andrà dal 2012 al 2014, non solo nuovi nati ma adottati nello stesso periodo. Quindi è un fondo che garantisce il 50% di questi finanziamenti. Ricordiamo, il ticket massimo sono 5.000 euro, un tasso la metà pari a quello di mercato per una durata massimo di 5 anni. Rileva la condizione reddituale della famiglia? No, non rileva la condizione reddituale, rileva solo per ottenere una maggiore copertura del fondo, e quindi una più facile ottenimento del finanziamento sensibile la valutazione medio creditizio, ma non rileva i fini di accesso. Un'ultima domanda, poi devo salutarvi entrambi. Un ascoltatore, dottor Peppetti, ci chiede se questa moratoria, siccome mi pare che sia così, magari glielo ribadiamo, possa essere chiesta alla banca anche per sospendere un prestito, un'operazione di credito al consumo, quindi piuttosto che il mutuo. No, non è stata fatta per il credito al consumo, sebbene mi sembra due o tre gruppi bancari lo facciano per via autonoma, comunque non rientra, non rientra nell'ambito del piano famiglia e di quello che sarà poi il percorso famiglia. Il percorso famiglia che quando si concretizzerà anche nei due tasselli mancanti, dottor Peppetti ce li verrà sicuramente a raccontare. La nostra, la nostra trasmissione termina qua. Max, grazie per essere ritornato da noi, sicuramente avremo modo tra qualche tempo di reinvitarti di nuovo. Io intanto ringrazio anche Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Filippo Lauricella oggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo domani in diretta con Salva Danaghi, appunto vi diamo un anticipo su un'iniziativa che si svolgerà invece dopodomani, lo sciopero del carrello della spesa. Chissà che cosa hanno pensato questa volta le associazioni dei consumatori. A tutti da Deborah Rosciani, buona giornata.